Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata, l'ultima puntata, magari fosse la prima della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, lo dico subito a chi è in ascolto, parleremo nella seconda ora del programma di decrescita felice. Voi conoscete tutti i miei dubbi, non su una maggiore sobrietà, su consumare in maniera diversa, su produrre PIL in maniera diversa, ma sull'ipotesi che si possa decrescere in maniera felice aumentando l'occupazione. Ho dei dubbi proprio di carattere concettuale, non semplicemente ideologico, ci mancherebbe, fermo restando che appunto la crescita cambia, non può essere fatta sui modelli di una volta, magari modelli degli anni 60, degli anni 70, il mondo stesso sta cambiando. La neosobrietà a mio avviso è anche un valore, consumavamo anche troppo e sopra le nostre possibilità. Detto questo, siccome a mio avviso il problema in questo momento, e non solo a mio avviso, principale è l'occupazione dell'area euro, i disoccupati dell'area euro, io vorrei capire come si riesce a aumentare l'occupazione con una decrescita, perché per essere felice non è una scelta, deve essere, in questo caso sarebbe un'azione collettiva, non la scelta individuale di guadagnare meno, consumare meno e quindi essere più felici. Andando avanti su questo, però, della crescita, della mancanza di crescita e dell'aumento della disoccupazione, ha parlato oggi anche il Premier Enrico Letta e lo ascolteremo perché ha avuto un incontro con il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz oggi a Bruxelles e ha chiesto appunto che si creino le formule già nel prossimo Consiglio Europeo di giugno per dare risposta ai giovani senza lavoro, altrimenti non vi sarà futuro per l'Europa, e questo è un fronte. L'altro fronte invece riguarda i mercati da un lato. Perché? Perché oggi Tokyo di nuovo è tornata a chiudere sui massimi da 5 anni a questa parte, 14.600 punti, quasi il 3%, il dollaro supera i 100 yen, 101,2 per la prima volta in 4 anni, e siamo ai livelli più alti dal 7 gennaio 2008, quindi ben prima dello scoppio, che è ottobre, del fallimento di Lehman Brothers, lo scoppio della crisi. Anche su questo però un po' di prudenza l'ha gettata il numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, il quale ha detto: attenzione, l'economia americana non ha ancora recuperato i posti di lavoro persi con la recessione, e dal sistema bancario ombra fatto di fondi speculativi arrivano ancora molti rischi. Di Giappone e crescita parleremo prima dei mercati, parleremo anche di Italia però, perché resta tutto il tema dell'IMU. Nel giorno in cui, adesso vi racconterò, sono usciti altri dati di carattere economico sull'inflazione soprattutto e sulla produzione industriale. La borsa come va? Beh, sulla scia anche di Tokyo, bene Milano, più 1% in questo momento, bene Parigi, più 0,50, e un po' più debole Francoforte, più 0,20%, Londra più 0,35%, l'America è invariata. Lo spread è sceso a 252 punti, oggi collocati bot per 7 miliardi, con rendimenti ai minimi storici. Questo è molto molto importante per il nostro paese, perché vuol dire che ci costa sempre meno trovare finanziatori per il nostro debito e quindi paghiamo meno di interessi sul debito che emettiamo, quindi sui finanziamenti che riceviamo. La borsa, dicevo, Mediobanca più 5%, di Assorin più 4,50, Prismian più 3, Intesa più 2,5, come Unicredit il 2,20 lo guadagna Azimut, e anche Snam il 2%, Banco Popolare l'1,90, Fiat l'1,80, Fiat Industrial e anche ST Microelectronics e Exor. In fronte opposto meno 2 Monte dei Paschi, meno 1,70 Fondieri Assai, Buzzi Unice meno 1,40, Saipa meno 1,30, Mediolanum meno 1,1, Telecom meno 0,80 per cento. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. dico a chi scrive sulla decrescita felice, abbiate pazienza, ne parleremo. Io non ho detto che dobbiamo consumare di più, ho detto che dobbiamo consumare meglio, che sono d'accordo che la neosobrietà non sia assolutamente un male, che questo paese col debito che ha chiaramente ha vissuto al di sopra delle sue possibilità e tutto quello che volete. Mi sfugge solo un concetto: un conto è crescere in maniera diversa, puntando di più per esempio sulla sostenibilità idrogeologica del paese, investendo sulla sicurezza, sul risparmio energetico delle abitazioni. Altra cosa è dire che bisogna decrescere in maniera felice. Io direi crescere in maniera diversa, questo è un conto. Nessuno vuole imitare i modelli produttivi degli anni 60, quelli li sta facendo forse la Cina e l'India, però con i disoccupati che abbiamo crescere in maniera diversa e creare occupazione diversa mi sta bene. Decrescere in maniera felice mi sembra un po' un ossimoro tutto qua. Allora, torniamo invece con i temi di carattere internazionale, al di là di Tokyo e di Ben Bernanke. Va bene la Germania sull'export a marzo, più 0,5%, e il Sole 24 Ore oggi stima che se dovesse finire l'euro, abbandonare la valuta unica costerebbe a ogni cittadino tedesco 14.000 euro di mancati guadagni in 12 anni, dal 2013 al 2025. Il PIL perderebbe mezzo punto all'anno in Germania. Nel 2025 si ritroverebbe con un prodotto lordo sceso praticamente a 2.600 miliardi contro i 2.800 miliardi se avesse l'euro. Questo studio lo ha fatto, oggi si trova sulle 24 ore appunto, lo ha fatto la fondazione tedesca Bertelsmann, tra l'altro, che segnala come la fine dell'euro per la Germania vorrebbe dire anche la perdita di 200.000 posti di lavoro solo nel primo anno. Il marco subirebbe una rivalutazione del 23%, quindi diventerebbe più forte di un 23%, mentre l'euro si svaluterebbe del 7%. Lo dico perché spesso ricordiamo come uscire dall'euro non convenga ai paesi periferici, ai paesi del sud, ma non conviene neanche alla Germania uscire dall'euro, stando allo studio della fondazione tedesca Bertelsmann. La produzione industriale italiana meno 0,8% a marzo, in un anno, quindi rispetto all'anno scorso, a marzo 2012 siamo meno 5,2%, è il 19° calo consecutivo della produzione industriale, e secondo l'anticipazione del Centro Studi Confindustria ristagnerà anche ad aprile. Mentre dal porto, restando in Italia, Montenegrino di Bar sull'Adriatico, parte oggi la prima nave carica di auto 500L prodotta nello stabilimento Fiat della Serbia centrale, Kragujevac, se non ricordo male, e diretta al mercato statunitense. Praticamente tutte il 99% delle 500L prodotte in Serbia andranno all'export, e grazie alla Fiat 500L la Serbia è uscita dalla recessione. Questa fabbrica, insomma, ha un contributo fondamentale nel dato sul PIL serbo. Negli ultimi due mesi sono stati assunti altri 500 operai e nell'intero stabilimento lavorano attualmente 3.000 persone invece delle 2.500 previste, in larga parte giovani. Buona notizia invece per i dipendenti del San Raffaele, perché all'alba è stato firmato l'accordo sui posti di lavoro che rischiavano di saltare, chiuso l'accordo anche per la parte universitaria alla presenza del ministro dell'istruzione Carrozza, e adesso, lo ha detto lo stesso ministro, sarà compito del consiglio di amministrazione definire un piano di rilancio per il San Raffaele. Adesso arriviamo anche all'IMU, devo però dare la nostra rubrica, ahimè, quasi quotidiana, su risparmi da una parte, ma anche ancora sprechi dall'altra del denaro pubblico. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Abbassare tutte le più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, la Fuori di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. A proposito di, non decrescita felice, ma insomma di risparmi, l'Eliseo in Francia ha deciso di vendere il suo appartamento a New York, che è la sede del rappresentante permanente all'ONU. Il mega appartamento si trova a Manhattan, a Park Avenue. Lo Stato francese occupa il 12° e il 13° piano. L'appartamento vale tra i 35 e i 40 milioni di dollari e comunque serve tutto per far cassa. Mentre per quello che riguarda l'Italia, il Premier Letta ha pensato per l'abbazia di Spineto, ormai l'avete letto, a un'organizzazione low cost, diciamo, per spostare i ministri a Sarteano, Siena, dove domenica e lunedì si terrà appunto il raduno informale del governo. Niente auto blu, qualcuno quindi l'auto la userà anche perché non tutti i componenti partiranno da Roma, ci sarà un pullman in partenza da Roma. Chi sta tagliando o sta cercando di tagliare invece è il governo sul CNEL. La cosa interessante è che il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, si oppone. Perché? Allora, il CNEL costa agli italiani 30 milioni di euro l'anno. La Spending Review ha imposto una serie di risparmi anche all'organo CNEL. Il CNEL si è ribellato e ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte Costituzionale con un ricorso firmato dallo stesso presidente Antonio Marzano, il quale, per inciso, per fare il presidente del CNEL guadagna 215.000 euro l'anno. Perché si è opposto? Perché i membri del Consiglio vogliono percepire ancora le indennità forfettiarie giornaliere, continuare a stipulare contratti di ricerca senza rispettare il codice degli appalti e proseguire nel conferire incarichi di consulenza senza spesso rispettare le norme. Tra l'altro, in questo modo il presidente dell'organo ausiliario si è messo contro le stesse istituzioni che dovrebbero essere ausiliate dal CNEL. Insomma, 31 consiglieri su 64 hanno impugnato la legge che taglia la spesa. Mettiamola così, ci sono diverse percezioni di questa crisi, no? Allora, nel frattempo continuano ad arrivare notizie dalla regione Sicilia, perché vi sarebbe una norma, tra virgolette, nascosta del 2008, che ha dato 600 posti fissi ai forestali, quindi assunti a tempo indeterminato in aperta violazione del blocco imposto dalla regione. Perché la norma del 2008 impediva di allargare la platea degli stipendiati con posto fisso alla regione. Ma dalle pieghe del turnover viene fuori un'infornata di altre 600 assunzioni e che peseranno tra i 7 e i 10 milioni di euro l'anno. La legge utilizzata per introdurre questa assunzione e stabilizzazione nascosta risale al 2006. Praticamente prevede dall'anno successivo il turnover dei forestali con uno scorrimento dalle fasce inferiori a quelle immediatamente superiori. In sostanza, quando un lavoratore con garanzie occupazionali maggiori va in pensione, gli subentra uno di livello più basso. E così i forestali con 78 e 101 giornate lavorative hanno sostituito quelli con 151. Anche per questi però è scattata la promozione a livello superiore. In questo modo la copertura dei posti disponibili si è trasformata in un ulteriore allargamento degli assunti a tempo determinato. Ci sono 1.100 forestali assunti a tempo indeterminato dalla Regione Sicilia e più della metà sono stati assunti con questo meccanismo. A cui si sommano i 7.000 impegnati in attività antincendio, 18.000 destinati alla manutenzione dei boschi e aree naturali protetti. E in questo modo l'esercito dei forestali siciliani continua a aumentare. A me 25.000 più 1.100, 26.000 sembrano un po' tanti come forestali. E questo vuol dire per i conti del bilancio regionale 205 milioni di euro, in calo rispetto al record del governo Lombardo quando toccò i 350 milioni di euro. Insomma, pensate che a ognuno dei forestali con posto fisso la regione paga uno stipendio di oltre 30.000 euro lordi l'anno, 100 euro al giorno, oltre il doppio del costo degli stagionali con più giornate di lavoro assicurate. Ah boh, chiudiamo con questa notizia perché non voglio polemizzare di nuovo sui forestali, mi sembrano numeri che si commentano da soli. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Torniamo a parlare di IMU, tra l'altro il Sole 24 Ore di domani uscirà con uno speciale che si chiamerà proprio SOS IMU e quindi i quesiti più significativi dei lettori e le risposte anche degli esperti. I quesiti possono essere indirizzati al www.sole24ore.com SOS IMU. Dicevo, sull'IMU non si registrano novità significative perché insomma, ieri il ministro Saccomanni ha detto a giugno i capannoni e i negozi pagheranno e ha poi confermato che il governo è al lavoro per sospendere la rata di giugno che riguarda però solo la prima casa. C'è l'impegno a, come dire, a sospendere la rata dell'IMU di giugno, del 16 giugno, e c'è l'impegno politico a ridefinire, diciamo, la materia riguardante la tassazione sulle proprietà immobiliari entro 100 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Quindi questo significa che, diciamo, in questo periodo il governo sarà fortemente impegnato a trovare una soluzione a questo problema e nel frattempo ci sarà l'impegno anche a fornire ai comuni, diciamo, i mezzi liquidi attraverso anticipazioni della tesoreria statale per fronteggiare le loro esigenze di liquidità. E però il ministro dello sviluppo economico Zanonato oggi ha detto: beh, l'IMU dovrebbe essere tolta dai capannoni perché se sono uno strumento di impresa è giusto che non si paghi, perché sarebbe come farla pagare su un tornio. Non fa una piega questo ragionamento. Però mi scrivono già ascoltatori che hanno capannoni vuoti, dov'è l'SMS, e dovranno pagare una bella botta di IMU, vediamo se è già scomparso, riesco a ritrovarlo, mentre ricerco l'SMS. Saluto e ringrazio per essere in collegamento con noi Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Buonasera a voi. Autore dell'articolo di ieri in cui le cifre parlavano chiare, perché noi ci occupiamo sempre dell'IMU sulla prima casa, che sono 4 miliardi, ma dei 23 miliardi di IMU, la stragrande maggioranza arrivano anche da capannoni, negozi, uffici. Allora, perché si registreranno aumenti che tu hai stimato tra il 50 e il 200% per negozi, alberghi, centri commerciali e capannoni industriali? Per due ragioni. La prima è che capannoni industriali e alberghi e centri commerciali fanno parte di una stessa famiglia catastale, per il catasto sono trattati uguali e quest'anno hanno un aumento lineare uguale per tutti dell'8,5% dei valori fiscali di riferimento, già previsto dal decreto Monti del 2011. Il decreto Monti ha fatto aumentare di un 20% il primo anno il valore fiscale su cui si calcola l'IMU e di un altro 8,5% quest'anno. L'altra botta per l'acconto arriva dalle nuove regole di calcolo dell'acconto. L'acconto di giugno l'anno scorso si pagava sulla base dell'aliquota standard fissata dallo Stato, il 7,6 per mille. Quest'anno invece l'acconto si paga sull'aliquota decisa dai comuni nel 2013 o nel 2012. Allora, in molti casi l'aliquota è il 9,6, 10,6 e quindi confrontando l'acconto di quest'anno con l'acconto dell'anno scorso, cioè in questi comuni sono circa il 50%, 50,5% dei comuni, c'è un aggravio tra il 30 e il 50%. Ci sono poi casi peggiori, perché l'anno scorso il gettito prodotto dai capannoni, dagli alberghi, bla bla bla, era diviso in due fra Stato e Comuni. Quest'anno l'intero gettito ad aliquota standard va allo Stato e ai Comuni va, diciamo così, la maggiorazione, per cui le agevolazioni, gli sconti che molti Comuni avevano introdotto già all'epoca dell'ICI, per esempio se tu sei una nuova impresa, se tu sei un'impresa che accresce l'occupazione, se tu hai rilevato un capannone da un fallimento e così hai mantenuto i posti di lavoro, bla bla bla, avevi un IMO, un ICI o un IMU ridotta. Quest'anno questi sconti sono vietati perché i comuni non possono intervenire su una quota di imposta che è riservata allo Stato, quindi non possono abbassarla, e quindi in questi casi, cioè nei comuni dove fino all'anno scorso c'erano degli sconti per queste in genere per queste tipologie di attività, il cambio di regime può portare anche a triplicare l'imposta. Quindi da un lato appunto il meccanismo dell'8,3%, dall'altro il fatto che andando il gettito allo Stato questo giro, ai comuni vanno solo le maggiorazioni e tenderanno a prendersene tutte, mettiamola così, no? Cioè a evitare gli sgravi, no? Però gli aumenti ci sono già a prescindere dalle nuove decisioni dei comuni, perché sì, certo, si calcola certo. Comunque l'aliquota 2012. L'ulteriore problema è che appunto andando il gettito dall'aliquota standard dallo Stato, nei tanti comuni medi, medio piccoli, in cui la presenza di un capannone, di un centro commerciale, o nei comuni turistici la presenza di un albergo è rilevante, no? Sul totale della base imponibile. Ovviamente, per far quadrare i conti bisognerà alzare molto spesso la maggiorazione anche nei comuni che l'anno scorso avevano tenuto l'aliquota al 7,6. Ma tra l'altro mi scrivono alcuni ascoltatori, cito un esempio, abbiamo un capannone in provincia di Foggia di 2000 metri quadri sfitto da 3 anni, dovremmo pagare 18.000 euro a giugno. Ma non è un po' assurdo, adesso lascia stare un attimo, che paghino anche capannoni sfitti, quindi aziende che li tengono ma sono in oggettiva difficoltà, non dico l'IMU e i terremotati perché lì viene da sola, no? Sì, è l'assurdità diciamo dell'imposta sul mattone, quindi era già dell'ICI, ma con l'ICI c'erano due differenze fondamentali: uno, che l'ICI era molto più bassa, punto primo, punto secondo, era molto più manovrabile dai comuni, per cui nelle delibere si facevano una serie di differenziazioni per cui si abbatteva per esempio l'aliquota al minimo nei casi appunto di capannoni vuoti o cose di questo tipo. L'IMU è un po' più ignorante come meccanismo, perché è lineare, no? Colpisce tutti allo stesso modo, non permette appunto da quest'anno per gli immobili delle imprese, non, proprio vieta per legge qualsiasi differenziazione al ribasso da parte dei comuni, e conseguentemente diventa vero il fatto che ai fini fiscali, diciamo, la villa al mare e il capannone industriale sono trattati allo stesso modo, perché il capannone industriale è uno strumento di lavoro, ma anche l'albergo è uno strumento di lavoro, uno se vuole fare l'albergatore pare debba avere un albergo, quindi è un immobile che si chiama strumentale all'attività di impresa. Tuttavia l'IMU non differenzia, diciamo, sì, così, è quello che diceva Zanonato, appunto, insomma, è come se tassassi il tornio che serve all'impresa, no? Cioè, questo è un c'era po' assurdo. Già, ripeto, con l'ICI, ma l'ICI era molto più bassa e molto più manovrabile. Ma infatti l'ICI, alcuni dicevano che fosse la prima forma di federalismo, diciamo, di autonomia impositiva, fosse l'ICI, perché il comune aveva un certo margine per capire come applicarla, in che modo. Esatto, il problema è che modificare geneticamente l'IMU sono state le regole statali uguali per tutti. L'anno scorso, ci ricordiamo, il valore fiscale degli immobili, di tutti, comprese le case, è aumentato di botto del 60%, perché l'ha detto una legge. Quindi, uguale da Bolzano a Capopassero, tutti gli immobili abitativi sono aumentati del 60, tutti i negozi sono aumentati addirittura del 62,5, perché hanno cambiato i moltiplicatori con cui si calcola l'imposta. Ovviamente questi interventi lineari uguali per tutti determinano una lista di paradossi che potremmo elencare fino a questa notte tarda, insomma. E la cosa diventa ovviamente ancora più grave perché sulle attività economiche, sugli alberghi, sulle imprese incide in un momento di grande difficoltà, perché nei negozi, pensiamo a un negozio in centro a Milano, piccolino, che pagava di ICI mettiamo 400 euro e che ne paga di 2.500 in un tempo di contrazione dei consumi, per cui di margini molto più ridotti dell'attività economica, ovviamente è una stangata difficile da sopportare. E da qui appunto, visto che ci occupiamo sempre dell'IMU sulla prima casa, per carità, ma ripeto, non c'è paragone col gettito che dà, da lì le polemiche. Io ritengo che al di là della parte politica, del consenso politico che si ottiene nel dire leviamo l'IMU per la prima casa, perché l'80% degli italiani hanno una prima casa, ma il vero punto sia anche questo, cioè andiamo a penalizzare l'attività di impresa su beni strumentali spesso dell'impresa. L'albergo per l'albergatore è fondamentale per la sua attività di impresa, il capannone per chi produce manufatti è un bene strumentale, penalizzandoli senza neanche dare ai comuni la possibilità di intervenire in maniera un po' flessibile, anzi spingendoli in questo secondo giro a tenersi tutte le maggiorazioni, perché il grosso se ne va per lo Stato e quindi se vogliono vedere qualcosa devono tenersi le maggiorazioni e magari rinunciare alle agevolazioni fatte. Grazie a Gianni Trovati. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa ha chiuso con un più 1,1% a Milano, più 0,60% a Parigi, più 0,20% Francoforte. Molto bene oggi i bancari, Mediobanca più 5,70%, grazie anche alla trimestrale positiva di Generali, di cui è il principale azionista. Bene anche Intesa San Paolo più 2,40% e Unicredit più 2,40%. Ma la vera notizia di nuovo di borsa, e devo dire che questa è la settimana del Giappone, arriva da Tokyo, che questa mattina ha chiuso con un nuovo record non storico, ma era dal 7 gennaio del 2008 che non si vedeva un indice, il Nikkei, a 14.600 punti. Ha chiuso con un rialzo del 3% e il dollaro che va oltre i 100 yen, fino a 100,1 yen per la prima volta in 4 anni. E poi, come scrive oggi Sole 24 Ore, gli investitori giapponesi stanno finalmente, dico io, iniziando a comprare titoli di Stato, BOT, BTP europei, dopo due mesi in cui hanno prevalso le vendite. Ci colleghiamo con Tokyo, chiedo scusa per l'ora, con il corrispondente Sole 24 Ore, Stefano Carrer. Buonasera Stefano. Stefano, buonasera. Mi senti? Sì, mi sentite? Sì, buonasera a tutti. Abbiamo un leggerissimo ritardo, ma è comprensibile. Allora, i cali degli spread e dei rendimenti erano stati generati le scorse settimane da un effetto annuncio, cioè il Giappone aveva annunciato che sarebbe tornato a comprare massicciamente debito europeo. Adesso l'ha fatto. Come si è passati dall'annuncio all'atto vero e proprio, all'inversione di tendenza? Ma diciamo, i tassi europei erano scesi proprio perché c'era l'aspettativa di questo afflusso di capitali giapponesi in uscita alla ricerca di maggiori rendimenti, ma i grandi investitori istituzionali giapponesi di solito all'inizio di aprile per loro è l'inizio del loro anno fiscale, allora tendono a bloccare un po' di profitti vendendo appunto bond esteri prima poi di affrontare le nuove strategie dell'anno. Quindi c'era stato a un certo punto un po' di preoccupazione perché appunto gli investitori occidentali in realtà avevano fatto scendere i tassi pensando anticipiamo i giapponesi prima che arrivino, però questi sembrava che non arrivassero, invece proprio oggi il Ministero delle Finanze ha rilasciato delle statistiche secondo cui i grandi investitori istituzionali giapponesi hanno cominciato a partire verso la fine di aprile a fare acquisti netti di bond stranieri, quindi soprattutto americani ma anche europei, e questo per un netto di oltre 5 miliardi di dollari, e comunque le grandi compagnie di assicurazione e le banche giapponesi hanno preannunciato che prendono in considerazione appunto l'investimento in bond anche europei, anche relativamente rischiosi come quelli dell'Europa mediterranea, sia pure hanno accennato a breve come insomma possibilità, perché ovviamente non si sbilanciano poi direttamente. Ancora, per quello che riguarda insomma, l'inversione di tendenza, appunto, tu hai quantificato in 5 miliardi, no? Di dollari? Sì, questo in due settimane, sono le statistiche delle due settimane al 5 maggio, perché c'è un gap temporale, queste sono le statistiche ufficiali. Comunque si attende che, appunto, perché in fondo è la stessa banca centrale giapponese che invita i grandi investitori giapponesi a diversificare il loro portafoglio, proprio perché ha un po' alterato l'intero mercato dei bond giapponesi, annunciando che comprerà ben il 70% di tutte le nuove emissioni, e quindi diciamo sta forzando un po', e questo è un po' paradossale, perché si crea una situazione per cui gli investitori stranieri stanno portando soldi in Giappone sulla borsa di Tokyo, perché pensano che con il calo dello yen continuerà a salire, mentre gli investitori giapponesi stanno cominciando appunto a comprare un po' di titoli di Stato europei, perché sono alla ricerca appunto di rendimenti un po' più alti. Rendimenti. Ecco, l'ultimo commento lo vorrei appunto sullo yen, perché è chiaro che più lo yen è debole sul dollaro, più le esportazioni giapponesi ne risentiranno in maniera positiva. A cosa è dovuta questa debolezza dello yen sul dollaro, appunto sopra i 100 yen per un dollaro? Sì, dunque, intanto proprio la politica ultra espansiva della banca centrale giapponese ha dato il segnale appunto che... E poi c'è appunto l'obiettivo del governo, il vero obiettivo del governo giapponese è proprio uno yen debole, anche se non lo dice, anche se lo maschera dicendo noi vogliamo solo far finire la deflazione, ma di fatto oggi sono andato alla conferenza stampa per esempio di Nissan, c'era Carlos Ghosn e lui ha detto bene, uno yen a 100 ci va bene, e Ghosn era stato quello che l'anno scorso aveva minacciato il governo giapponese dicendo o il governo giapponese fa come la Svizzera e traccia una linea sulla sala, abbia massimo 90 sul dollaro, non sotto, altrimenti ce ne andiamo, altrimenti è minacciato una delocalizzazione accelerata dell'industria. Già Nissan l'ha fatto più di Toyota, ha portato molta più produzione all'estero, però appunto diciamo 100 yen è un po' un successo della Abenomics e quello che vuole l'industria manifatturiera giapponese per avere una competitività internazionale. Intanto com'è andata la nostra borsa? Dicevo più 1,13% Milano, più 0,60 Parigi, più 0,20 Francoforte e più 0,40 Londra. Euro su dollaro a 1,2953, Monte dei Paschi meno 2% da un lato, Mediobanca più 5,70% dall'altro, e allora borsa sia. Ciao Condina, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Milano si avvantaggia dall'abbassamento dello spread a poco sopra i 250 punti base e soprattutto dell'asta, come ricordavamo questa mattina in apertura del programma, l'asta in cui bot collocati per 7 miliardi hanno visto dei rendimenti ai minimi storici, lo 0,7%. Ne hanno risentito molto i titoli finanziari, come sempre avviene in questi casi, Intesa e Unicredit, ma non solo. Intesa ha fatto più 2,40, Unicredit più 2,40 anch'esso. Banco Popolare più 2,30 e Ubibanca più 1,60. Invece Mediobanca, che ha fatto più 5,70%, si muove su un altro ragionamento. Ciao. Eh sì, sul ragionamento di quella che è la sua principale partecipazione, cioè Generali. Ricordiamo che Mediobanca è il primo socio di Generali con il 13,4%, questa mattina c'è stata appunto la trimestrale di Generali e il numero uno del Leone l'ha definita come la trimestrale migliore da 4 anni a questa parte, con un utile netto che è cresciuto del 6,3% a 603 milioni. Ovviamente un ritorno a una redditività così significativa per le Generali ha un significato molto importante anche per Mediobanca, a maggior ragione perché il bilancio dei 9 mesi approvato ieri da Piazzetta Cuccia mostrava un utile netto in flessione del 64%. Adesso altri titoli invece Generali, già tu lo accennavi, l'utile del trimestre ha fatto più 6,3% a 630 milioni di euro, premi complessivi per 19 miliardi in calo del 2,6%, il titolo generali più 0,70%. Chi è rimbalzato oggi dopo il calo di ieri invece è Snam. Collocamento di una parte, di una quota di Snam agli investitori istituzionali più 2,20%. Eh beh, questo è un andamento diciamo abbastanza frequente sui mercati finanziari quando avviene il collocamento di una quota così grossa del capitale. Ricordiamo che Eni ha collocato oltre l'11% di Snam, era la quota che gli rimaneva appunto in bilancio dopo quella che era stata la separazione proprietaria avvenuta l'anno scorso tra Eni e Snam. Ovviamente la vendita di un pacchetto così grosso abbassa il titolo e poi il giorno successivo immediatamente il titolo risale, in questo caso del 2,2%. Diasorin più 4% a seguito anche della presentazione dei risultati, no? Sì, c'era molta attesa. Siamo sui titoli più sottili, certo. Per questi risultati comunque sostanzialmente sono stati rispettati i target, cioè quelli di un utile netto del primo trimestre di 20 milioni, comunque in calo, ma di questi tempi rispettare i target non è poco, insomma. Il mercato l'ha premiato. L'ha premiato. Chi invece non li ha rispettati, mi sembra di aver capito, ha dato conti peggiori delle attese, Buzzi Unicem, no? Sì, Buzzi Unicem oggi infatti ha chiuso tra i peggiori titoli, ha chiuso in ribasso dell'1,4%, il primo trimestre si è chiuso con una perdita di 62,8 milioni in peggioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Buzzi veniva già da una serie di forti ribassi legati anche al brutto andamento di una controllata tedesca, sicuramente considerata la crisi, non è un bel periodo per il settore delle costruzioni. Ancora migliori e peggiori in assoluto, SNAI più 18,20, Premafin più 6,60, Mea Tecnimon più 6,30, come CIA, Mediobanca più 5,70, dicevamo Aeroporto di Firenze più 5,15%, fronte opposto invece AF meno 4,50%, Landi Renzo meno 3,70, Dea Capital meno 3,44%, Ambro Mobiliare meno 3,41%. C'è oggi anche l'utile di Unicredit, nei primi trimestri l'utile a 449 milioni di euro e il dato è sopra le attese degli analisti, i ricavi ammontano a 6 miliardi di euro. Chi invece tra le banche non ha avuto effetti positivi, chiudiamo con questo, sono Monte dei Paschi meno 2%, devo dire debole anche la Popolare di Milano meno 0,26%, e fa particolarmente specie nel giorno in cui la maggior parte del settore bancario si è avvantaggiato dello spread. Eh sì, Monte dei Paschi paga l'ennesimo taglio di un rating, questa volta da parte di Moody's, che ha portato anche la valutazione della banca a un outlook negativo, cioè si candida a tagliare ancora una volta il rating. Invece per quanto riguarda la Banca Popolare di Milano pesa ancora il fatto che si allontani forse definitivamente la trasformazione in società per azioni. E quindi il blocco diciamo dei sindacati dipendenti, lo spiego a tutti, quando una banca, la Banca Popolare, ha strumenti molto più rigidi per essere scalata, il voto capitario, quindi una testa a un voto, al di là di quanto tu abbia di azioni, dei limiti al possesso di quote azionarie e quant'altro. Se, come era nell'intenzione dei vertici, la Popolare di Milano dovesse trasformarsi in una SPA, a quel punto diventerebbe più contendibile, cioè, no? Sì, ecco, assolutamente poteva aprire mercato, anche la banca in teoria anche ad eventuali fusioni aggregazioni, certo, con altre entità, certo. Quindi a operazioni che potevano in ogni caso diciamo valorizzare il titolo. Grazie, buon fine settimana a Ceo Condina e a tutti i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR e poi, lo dico senza polemica, parliamo di decrescita felice, ripeto, prima di iniziare a discuterne con il teorico più importante che c'è in Italia, che è Pallante. Nulla in contrario a avere una crescita diversa, fatta con altri strumenti, quindi una composizione del PIL diversa, mettere in sicurezza le case, risparmio energetico e quant'altro, un'occupazione diversa, non dobbiamo per forza pensare all'occupazione come 20 anni fa, no, questo però è una crescita diversa, più sobria, più che guarda al futuro e quant'altro. Altra cosa però è decrescita felice, non riesco a capire obiettivamente come si possa decrescere in maniera felice. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo del Premier Letta, prima di arrivare al tema della decrescita felice, che ha incontrato il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz l'Europa deve dare risposte sulla disoccupazione giovanile, ha detto Letta, è arrivata a livelli assolutamente insostenibili. E per questo chiediamo che il prossimo Consiglio europeo di giugno si concentri su un piano straordinario sull'occupazione giovanile, varando subito misure concrete, anche perché senza un lavoro per i giovani, ha continuato il neo presidente del Consiglio, non c'è futuro per l'Europa. Il principale problema oggi è quello in Europa della crescita della disoccupazione giovanile a dei livelli assolutamente insostenibili. Questo è il motivo per il quale noi vogliamo e chiediamo che il prossimo Consiglio europeo di giugno concentri i suoi sforzi su un piano straordinario per l'occupazione dei giovani. Il tema principale per noi è Consiglio europeo di giugno, la scelta di fare della lotta alla disoccupazione giovanile il tema principale, perché non è possibile che i nostri concittadini, le famiglie europee che soffrono, che vivono un momento di grande difficoltà, non trovino nell'Europa, nei leader europei, delle risposte concrete. Naturalmente questo non sarà l'unico punto, ma per noi questo piano straordinario, immediato, con misure immediate, non con un piano faraonico a lunga gittata, con misure immediate per dare subito risposte sull'occupazione giovanile, riteniamo che sia la priorità. E poi sempre il Premier Enrico Letta ha detto che il governo italiano sostiene il ruolo centrale del Parlamento europeo nel definire scelte più flessibili nell'analisi dei bilanci degli stati, e ha aggiunto che, questo l'ho aggiunto però sempre Enrico Letta, che l'Italia è fortemente europeista, ritiene appunto che anche il Partito Popolare Europeo debba essere centrale nelle decisioni che devono essere prese. Sentiamo questo passaggio: e anche il Parlamento Europeo deve essere centrale nel rendere più flessibili, diciamo, le strategie di bilancio dei vari stati. Il governo italiano sostiene il ruolo centrale del Parlamento Europeo nella definizione del completamento del bilancio europeo, con le scelte di maggiore flessibilizzazione del bilancio. Il governo italiano, essendo un governo fortemente europeista, crede che il Parlamento europeo debba essere centrale nelle decisioni che a livello europeo devono essere prese. E poi sempre Letta: sono molto orgoglioso del mio paese perché si presenta a Bruxelles con i conti in ordine grazie al governo precedente, quello di Mario Monti, e alla maggioranza che lo ha sostenuto. Letta ha poi continuato dicendo che non esiste uno scontro ideologico tra il rigore da una parte e la crescita dall'altra, non sono contrapposte austerità e crescita. Che è la linea espressa oggi anche dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che ha detto che occorre trovare un equilibrio tra rigore e crescita, che già è un avanzamento nella posizione tedesca. Allora, mentre in Europa si discute di come far tornare a crescere l'Europa, c'è chi in realtà continua a sostenere che questo non sia il problema, cioè disoccupazione giovanile immagino di sì, ma la crescita maggiore, ma si debba arrivare a un concetto di decrescita felice. Il movimento in realtà nasce in Francia soprattutto, ma non solo, perché i teorici del pensiero della decrescita felice sono Serge Latouche, che parte dal presupposto che la correlazione tra crescita economica e benessere non sia necessariamente positiva, anzi che in molte situazioni a un aumento del PIL si riscontri e venga di conseguenza una diminuzione della qualità della vita. E anche Nicolas Georgescu Rögen, sempre sulla decrescita felice. In Italia uno dei principali esponenti del movimento della decrescita felice è Maurizio Pallante, presidente e fondatore appunto del Movimento per la Decrescita Felice, autore di numerosi libri, tra cui La Decrescita Felice, La Qualità della Vita Non Dipende dal PIL, meno è meglio, decrescere per progredire, decrescita e migrazione. Allora saluto e ringrazio Maurizio Pallante per essere in collegamento con noi. Buonasera. Senta Pallante, partiamo poi dalle varie categorie, ma non le sembra un po' strano che nel momento in cui tutta l'area euro si interroga su come uscire da una decrescita, cioè recessione o stagnazione, un attimo, mi faccio finire la domanda, no? E come tornare a crescere, in questo momento non può sembrare così fuori luogo, fuori dal momento storico, parlare di decrescita felice? Ma lei confonde il concetto di decrescita col concetto di recessione, mi pare, no? No, chiedo. Decrescita non vuol dire un PIL in calo, no? No, decrescita vuol dire diminuzione selettiva e guidata della produzione di merci che non hanno nessuna utilità. Mm. Recessione è la diminuzione incontrollata e generalizzata di tutte le merci. Perfetto. Tra decrescita e recessione c'è lo stesso parallelo che c'è tra una persona che non mangia perché ha deciso di fare una dieta e una persona che non mangia perché non ha da mangiare. Certo. Non mi sembra che facciano la stessa cosa, no? Ecco, ma nel primo caso è un obbligo, quello che non mangia o che non ha da mangiare, cioè, nel secondo caso è una scelta. Ecco. Ma non dovrebbe a questo punto la decrescita, anche diciamo la sobrietà, se vogliamo chiamarla... Non c'entra la sobrietà. Allora, le faccio degli esempi per capire molto semplicemente. Per riscaldare le nostre case in Italia, noi consumiamo mediamente 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Germania il massimo che è consentito è 7 litri, 7 metri cubi. Mm. Bene. Allora, vuol dire che se per legge si può imporre che una casa non consumi più di 7 litri, che le case che ne consumano 20 sono così mal costruite che disperdono dagli infissi, dalle pareti, dal sottotetto, i due terzi dell'energia che gli si mette dentro. Mm. Allora, la diminuzione di questi sprechi di energia comporta una decrescita selettiva del prodotto interno lordo, ma crea occupazione, perché se noi dovessimo ristrutturare le nostre case perché consumino come le peggiori case tedesche, dovremmo creare molta occupazione nell'attività dell'edilizia, un'occupazione che si paga da sé con i risparmi che consente di ottenere e che richiede l'uso di tecnologie più avanzate di quelle attualmente in corso. Quindi, se ho ben capito, per esempio il risparmio energetico... Non è risparmio energetico, è l'efficienza energetica, perché il risparmio energetico è un concetto che è relativo ai comportamenti delle persone. Mm. L'efficienza energetica è un concetto relativo alle tecnologie. Ok, quindi allora, l'applicazione di tecnologie che permettono anche di consumare meno energia, questo si può dire? Di aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia e quindi di sprecarne di meno. Sì, e consumare di meno? Sì, ma non quella necessaria. No, ma ho capito, dico semplicemente una casa più... ecosostenibile con alcuni parametri ha bisogno di meno energia per essere riscaldata, mettiamola proprio concretamente. È così. Quindi una maggiore il PIL di meno di una casa mal costruita che ne consuma di più. Okay. Questa è la differenza di fondo. Poi dietro a questi discorsi della crescita c'è la convinzione che la crescita crei occupazione, ma lei ne è sicuro di questo? Io non ho mai visto crescere l'occupazione quando il PIL cala. Dopodiché siamo d'accordo che ci sono tanti modi per far crescere il PIL, cioè non è che far crescere il PIL debba essere solo con la produzione manifatturiera. Noi abbiamo fatto molte puntate, lei dice che non c'entra, però io sono assolutamente a favore della neosobrietà, come la definì Gian Paolo Fabris, cioè non è detto che tutto quello che non consumiamo adesso fosse indispensabile, per cui se anche si creano comportamenti di consumo un po' più sostenibili, anche perché abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità, e eliminando alcuni bisogni indotti diciamo dall'industria, ci può anche essere. Quello che non capisco è, un conto è far crescere il PIL in maniera diversa e quindi per esempio con case più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico rispetto a case meno efficienti, quindi dando lavoro a chi fa queste case piuttosto che consumando più energia, e questo è una diversa composizione della crescita del PIL. Però non ho capito, le chiederei una risposta dopo il traffico, se questo va bene, ma allora non capisco perché il termine decrescita, cioè direi facciamo crescere il PIL in altro modo, non seguendo le vecchie strade, e su questo mi trovo personalmente molto d'accordo. Altra cosa però, allora perché usare il termine decrescita? Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia, nostro ospite Maurizio Pallante, presidente e fondatore del Movimento per la Decrescita Felice. Ripeto la domanda, Pallante, ho capito, un conto è contribuire a una crescita del PIL in maniera diversa rispetto ai beni e servizi di prima, e quindi alla produzione e al consumo di merci diciamo che non erano utili, l'esempio della casa mi sembra molto chiaro, della casa più efficiente. Altra cosa però, non capisco il termine decrescita, che vorrebbe dire crescere meno, se capisco bene. Certo, vuol dire diminuire il consumo di beni, di merci che non hanno nessuna utilità. Non so, posso fare anche altri esempi, fatto quello della casa, ma che so, il 3% del nostro PIL è il cibo che si butta. Se smettessimo di buttare cibo, cioè ci si comportasse in maniera più intelligente, il PIL diminuirebbe. Allora il problema è che il PIL è un indicatore quantitativo che non ci dice niente sull'utilità delle cose che si fanno. Noi vogliamo introdurre elementi di valutazione qualitativo nel fare umano, e soltanto se si introducono elementi di valutazione qualitativa saremo in grado di risolvere la crisi che stiamo vivendo. Quando il Premier Letta dice dobbiamo creare occupazione, io, una persona normodotata, io penso di essere normodotato, aggiungerei: per fare che cosa? Non se lo pone neanche il problema di fare per fare che cosa. Creare occupazione non è mai un valore in se stesso, è un valore creare occupazione utile. Siccome nei decenni passati abbiamo fatto dei disastri colossali nell'ottica della crescita, sprecando delle risorse, creando rifiuti e così via, noi abbiamo un mare di cose da fare qualitativamente per ridurre gli sprechi che abbiamo fatto negli anni passati. Questa è l'unica maniera di creare occupazione, quindi una decrescita selettiva e guidata del PIL, che è cosa completamente diversa dalla recessione. Lei immagini se un governo illuminato, che non è certo questo che abbiamo adesso, né quello che c'era prima, né quello che c'era prima ancora, decidesse non di creare occupazione, ma di ristrutturare energeticamente tutto il nostro patrimonio edilizio, perché consumi come le peggiori case tedesche, si metterebbe in moto un sacco di lavoro qualificato, e noi dovremmo comprare meno petrolio e meno gas dall'estero, risparmieremo dei soldi e potremmo pagare, senza aumentare il debito pubblico, i salari e gli stipendi delle persone che lavorano per fare in modo che le nostre case consumino di meno. Cioè dobbiamo dare uno scopo all'attività economica e produttiva. Non mi interessa la quantità di per sé, non mi interessa l'occupazione di per sé. Allora sì, lei sa che però per esempio chi studia la storia dell'economia sa che per esempio Roosevelt, per uscire dalla crisi del 29, e Keynes, che era il suo teorico in qualche modo, diceva piuttosto meglio che un operaio scavi una buca la mattina e l'altro la riempie di sabbia, almeno sono occupati, piuttosto che stiano a casa. Mi sembra una cosa poco intelligente. E non consuma. Questo è il modo in cui l'America, con grandi opere pubbliche, è uscita da questo. Però io posso anche essere d'accordo, non ho nessun problema a riconoscerlo, che per esempio è meglio creare occupazione operazioni che recuperano il dissesto del territorio, per esempio idrogeologico, in modo da risparmiare in futuro. E sappiamo tutti che se un ponte crolla e lo devi ricostruire il PIL sale, ma non stai meglio. Abbiamo fatto molte volte ascoltare il discorso di Robert Kennedy nel 68 all'Università del Kansas, quando disse: attenzione, il PIL misura tutto tranne quello per cui vale la pena vivere, essere felici. E su questo siamo d'accordo, cioè non devi necessariamente pensare a modelli vecchi. Se la manifattura, diciamo, di base si sposta in Cina e in India, tu non puoi continuare a pensare a una crescita economica sul modello degli anni 70, 80, 60. Però su quella degli anni 30. O degli anni 30. Su quella degli anni 30 di Keynes. Però quello che non capisco è: se c'è una decrescita del PIL, lei dice possiamo far decrescere il PIL facendo aumentare l'occupazione? Sì, certo, è l'unica maniera. Se lei guarda i dati occupazionali, il numero degli occupati in Italia è lo stesso del 1960. Dal 60 a oggi quante volte è cresciuto il PIL? Del 360%. La nostra popolazione è passata da 47 a 60 milioni di abitanti. Quindi un enorme aumento del PIL non soltanto non ha creato occupazione in termini in valori assoluti, ma l'ha ridotta in percentuale rispetto alla popolazione. Perché, come lei sa meglio di me, quando c'è un meccanismo di crescita, le aziende devono investire in tecnologie che riducono l'incidenza del lavoro umano sul valore aggiunto. Si produce di più con meno persone. Allora, il problema è che la crescita non crea occupazione, almeno dal 60 a oggi. Una decrescita selettiva del PIL, finalizzata a ridurre gli sprechi, è l'unica maniera di creare occupazione, perché crea occupazione utile. Allora, lei dice gli anni 60 e così via, ma lei pensa che sia possibile oggi fare quello che hanno fatto Roosevelt e Keynes negli anni 30? C'era il picco del petrolio negli anni 30, c'era l'effetto serra negli anni 30, c'erano nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico masse di rifiuti di plastica grandi come gli Stati Uniti? La situazione è completamente diversa, e non è così, tentando di rifare quello che è stato fatto in un'epoca storica passata, che si possono risolvere i problemi dell'oggi. Io quello che invito è a guardare con più attenzione quello che noi diciamo. Per esempio, Latouche non ha mai parlato di decrescita felice, mai. Bene, questo termine è un termine che contraddistingue il nostro movimento rispetto al... In Francia non esiste un movimento per la decrescita felice, esistono degli intellettuali che parlano di decrescita. Noi abbiamo dei circoli sparsi su tutto il territorio nazionale che cercano di realizzare la decrescita, e ci sono molti imprenditori che vengono dietro alle nostre proposte. Io ho già fatto incontri con l'API, con la Confartigianato, lo farò con la CNA. Mi hanno addirittura chiamato, lei pensi, l'addetta economica dell'ambasciata inglese a Roma. devono capirle queste cose quelli che vengono dall'Inghilterra, e quando noi diciamo qui in Italia dobbiamo essere inascoltati? No, ma guardi, io quello che non capisco non è solo una distinzione terminologica, se il ragionamento è bisogna consumare e sprecare meno beni, non merci che non sono beni, d'accordissimo, io la chiamo neosobrietà, ma lei la può chiamare come vuole. Se lei mi dice dobbiamo riorientare la composizione del PIL, quello che permette a un'economia di crescere, non basandolo appunto solo sugli elementi di una volta, ma anche su nuove forme che permettano anche una miglior qualità della vita, mi trovo assolutamente d'accordo. Non capisco perché introdurre il tema di decrescita, cioè voglio dire, se io occupo le persone per, poniamo, il dissesto idrogeologico del paese, no? Invece che per produrre, ho degli occupati in più, di qualità migliore, mi dice lei, perché contribuiscono al benessere collettivo, e fin qui ci siamo, però ho degli occupati in più che faranno aumentare un po' il mio PIL, che sarà composto da voci diverse da prima, cioè una crescita diversa la chiamerei io, no? Due terzi in meno dell'energia nelle case, il PIL cresce o diminuisce? Se consumiamo il 3% in meno di cibo che lo buttiamo, il PIL cresce o diminuisce? Cioè, è così scandaloso parlare di decrescita? Ho sentito Letta che parlava della crescita della disoccupazione. Le piace la crescita della disoccupazione? Non preferisce la decrescita della disoccupazione? Perché si fa spaventare dalle parole? No, io non mi faccio spaventare dalle parole. Dico semplicemente che un conto è chiedere una diversa composizione della crescita economica, che guardi più il futuro, che guardi anche il risparmio. Un conto è chiedere anche una neosobrietà. Guardi che in questi anni, volenti o nolenti, tutti hanno consumato di meno. Noi continuiamo a raccontare dati del consumo in calo, non è che sì, vedete, stiamo... La sobrietà riguarda il comportamento delle persone. Io sto parlando di tecnologie, sto parlando di occupazione, sto parlando di lavoro. Ci vogliono entrambe le cose, ma non capisco perché si accetti il discorso della sobrietà comportamentale e non si accetti un discorso di uno sviluppo tecnologico finalizzato a ridurre... Però mi scusi, per uscire dalla teoria, io le dico una cosa, noi abbiamo una disoccupazione che è all'11%, ok? Sì. Allora lei mi dice nei prossimi anni, mi dice guarda, con queste operazioni noi ridurremo la disoccupazione, che poi siano appunto diverse, perché sennò io poi come politico devo anche giustificare a queste persone perché restano disoccupate, cioè nel frattempo che facciamo? Perché o mi dite guarda, disoccupate vengono occupate bene, per fare il TAV occorrono secondo il governo 8 miliardi e 200 milioni e si creano 6.000 posti di lavoro. Secondo il Sole 24 Ore del febbraio dell'anno scorso, se gli stessi soldi venissero investiti nella ristrutturazione delle nostre case, dei nostri edifici, si ristrutturerebbero 15.000 scuole in tutta Italia e si creerebbe una quantità di posti di lavoro enormemente superiore. 1 milione investito in una grande opera, secondo i dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, crea 0,73 posti di lavoro. 1 milione investito nella ristrutturazione energetica degli appartamenti crea 13 posti di lavoro. Ma guarda, io su questo sono d'accordissimo, nel senso che spesso diciamo che è più importante che le opere pubbliche siano anche minori, non ho mai creduto alle grandi opere faraoniche, lo dice la stessa ANCE, che rappresenta i costruttori dell'edilizia, sbloccati i soldi dei comuni e delle province anche per la manutenzione e lavori più piccoli, perché hanno un maggiore impatto sul territorio anche a livello occupazionale. Tutto questo va bene, continuo a non capire perché parlare di decrescita, mi sembra una crescita, mi scusi se insisto, una crescita diversa. È una concezione strana la parola crescita, perché se diminuisce il consumo per me decresce. Io non capisco, dobbiamo secondo me toglierci da questa fascinazione delle parole quando anche non hanno il significato che cercano di veicolare. Sì, io però vorrei essere sicuro nel salutare e ringraziarla, perché è importante sentire l'opinione di tutti, vorrei essere sicuro che veramente vi sia questo travaso, cioè io occupo meno persone da una parte, che è un altro modello di crescita, e riesco a rioccupare tutte anche di più dall'altra parte, perché sennò a tavolino io non riesco a capire ancora come si arrivi a un travaso tra virgolette completo degli disoccupati che ho da una parte verso le nuove forme d'occupazione, perché voglio capire che stanno puntando sulla crescita, l'hanno creato occupazione. Quanti anni stanno parlando di che bisogna rilanciare la crescita? 5? Ci sono riusciti? Ma se la prenda con loro, non con me. No, guardi, secondo me non siamo cresciuti per altri motivi, ma come spiego tutti i giorni. Grazie comunque a Maurizio Pallante, presidente e fondatore del Movimento per la Decrescita Felice. Siamo non cresciuti per l'eccesso di austerità fine a se stessa. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Un augurio di buon fine settimana da Sebastiano Berisoni. Ci risentiamo lunedì prossimo.